E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eh sì, le mezze stagioni non ci sono più, ce lo diciamo ogni volta qui il sabato. Tuttavia sono salve le quattro stagioni, nel senso di pizza. Avete sentito che in questi giorni la Commissione Europea ha varato finalmente questo regolamento per cui la pizza napoletana, quella proprio fatta a Napoli o comunque in Campania, prodotta quindi secondo un certo rigore partenopeo, entra ufficialmente nell'Olimpo delle eccellenze alimentari europee. Si chiama la sigla, la vado a ritrovare, dunque, specialità tradizionale garantita, SGT. Bisogna dire che poi in realtà si scopre, leggendo un po' tutto il regolamento eccetera, che è possibile continuare a usare il nome di pizza napoletana anche per il prodotto non certificato, no? Nei vari paesi si possono inventare le cose più strambe e chiamarla pizza napoletana, un po' come chiudere la porta principale del negozio e lasciare aperto il retrobottega, un po' paradossale. Comunque, insomma, se vi interessa, l'Unione Europea in questo regolamento ha fatto 11 pagine, ha scritto di come deve essere fatta la pizza, gli ingredienti, lo spessore, tutto quanto, però io vi sintetizzo. Quindi la pizza napoletana, per chi la vuol fare proprio come si deve, deve essere fatta con pomodoro, mozzarella di bufala o mozzarella STG, quindi anche questa specialità protetta, territoriale, eccetera, olio extravergine d'oliva, è chiaro, origano, e dovrà inoltre avere un diametro non superiore ai 35 centimetri, quindi righello alla mano, controllo bene. E poi lo spessore, quello del bordo rialzato, tra 1 e 2 centimetri, a me piace un po' altino, tra 1 e 2 centimetri, una consistenza insieme morbida, elastica, facilmente piegabile a libretto, quindi se non si piega a libretto quella non è una pizza napoletana. Bene, a questo punto possiamo partire, anche questa è una notizia della settimana, ce ne sono tantissime. Voi su cosa vorreste ritornare a parlare? Qual è la notizia che in questi giorni, in questa settimana vi ha colpito di più? Il numero, lo sapete, è sempre a vostra disposizione, è un numero verde, quindi gratuito, 800 24 0024. Che notizia vi ha colpito? Su cosa volete esprimere liberamente, come sempre, la vostra opinione dei fatti di questi giorni? 800 24 0024. Però ci vuole anche sempre un opinionista estemporaneo ogni settimana, qui non ci sono più le mezze stagioni, e questa volta, signore e signori, è Oliviero Bea. Oliviero, ben trovato. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Oliviero Bea, sapete, è notissimo giornalista, scrittore, autore teatrale, poeta, conduttore radiofonico, televisivo, un elenco lunghissimo, e ha appena pubblicato con Garzanti Eros Terminal, il sesso, l'età, il potere, che detto così potrebbe far pensare a qualcosa di molto attuale, qualcosa che riguarda qualcuno in particolare, però prima di dirci se è vero o no, non mi pare che sia così. Oliviero, dimmi subito una notizia sulla quale poi vuoi tornare di questa settimana che ti ha colpito. Questa della pizza, per esempio, allora non so se ridere o piangere, per carità, tutto va tutto bene, è sacrosanto che l'Unione Europea si occupi dell'insieme, del complesso delle nazioni europee, cerchi di omologare, però un'unione che è politicamente così debole, e lo ha dimostrato 10.000 volte negli ultimi 30 certo. anni, e che invece sia formidabile nel misurare col righello i centimetri della pizza, insomma, mi lascia, come dire, un po' perplesso. Comunque, la prossima volta che vai a mangiare la pizza, portati il metro, il righello, 35 centimetri il diametro. E poi, come deve essere? Alta, indietro. Alta? Beh, se io uno, la voglio basta? 1-2 centimetri deve essere il cornicione, tra 1 e 2. Non lo so. Non ci sono più certezze, oltre che le mezze stagioni e tutto il resto, vabbè. Almeno la pizza è certa. E senti, quindi quello Eros Terminal, il sesso, l'età, il potere, non è una questione legata alla politica e ai calciatori? No, no, no, a parte che l'ho scritto un paio d'anni fa, è uscito da pochissimo, ma l'ho scritto un paio d'anni fa. E quindi, come dire, avevi previsto, visto e previsto, escort da Dario Berlusconi Marrazzo, quello mi è, come dire, estraneo. Mm. Non mi è strano il rapporto fra da che mondo è mondo, fra l'eros, il potere e anche l'età, soprattutto se le consideriamo queste voci in una, come dire, in una cornice di fantascienza. Che cosa ci aspetta per il prossimo futuro? Non Avatar, ma un futuro relativamente vicino, fra 10, 20, 30 anni. Cosa succederà dentro di noi, oltre che fuori di noi? Ecco, queste sono delle componenti di un romanzo vero e proprio che chiama Eros Terminal, non a caso. Senti, e poi tu stai anche curando un progetto sul web, no? Tra l'altro Facebook sì. compie 6 anni ieri, al compleanno due giorni fa, insomma, un social network che ha 400 milioni di iscritti in tutto il mondo, un continente praticamente. Sì, sì, internet è la cosa più interessante sul piano dei cambiamenti nella comunicazione sociale, negli stili di vita dell'ultima generazione o delle ultime due generazioni, direi. E a questo punto, per vista la velocità dei ricambi, sì. Io ho scritto un libro che è uscito nel maggio dell'anno scorso e che si chiama I nuovi mostri e che parla della mostruosità mediatico-politica della nostra società, e quindi molto duro, perché quanto il romanzo è narrativo e racconta delle cose, delle emozioni, così invece questo saggio, I nuovi mostri, è duro nei confronti della stampa, degli intellettuali che non ci sono più, di una democrazia a rischio, di un'opinione pubblica imbalsamata e via dicendo. Questo libro appunto è non solo un libro, è l'idea di resistere a questo imbarbarimento, ma non resistere in senso politico stretto, destra, sinistra e queste menate di cui, come dire, se vuoi parliamo, ma io le liquido abbastanza facilmente. C'è una degenerazione della politica in questo paese ormai in stato avanzato e comatoso, e la società italiana purtroppo non riesce a organizzarsi di fronte a questi comitati d'affari che litigano apparentemente come i ladri di Pisa, ma poi si mettono d'accordo. E per resistere però a questo imbarbarimento, che è essenzialmente culturale, per cui questo è un paese soggetto a una dealfabetizzazione mostruosa, ci sono dei dati che gridano vendetta, forse le persone che non vogliono che il paese si abbruttisca a destra, a sinistra, di sopra e di sotto, di traverso e di sguincio, forse dovrebbero culturalmente dare dei segni, dei segnali di resistenza, di vitalità, di sopravvivenza. E queste associazioni culturali a cui io mi rivolgo anche nel libro I nuovi mostri, che alla fine ha un appendice, un elenco lungo raccolto attraverso internet di associazioni culturali, e che adesso è una piattaforma addirittura, perché se uno va a www.inuovimostri.it trova una piattaforma con tutte le associazioni culturali che hanno aderito, ormai andiamo verso i 500 in tutta Italia, che fanno, come dire, uso di questa piattaforma per comunicare tra loro, per far sapere a tutti coloro che visitino questa piattaforma che iniziative culturali stanno mettendo in piedi a Caltanissetta piuttosto che a Udine. Non c'è un'analisi del sangue politico, come ho precisato e come continuo a ripetere per non essere frainteso. Qui si tratta di impedire che questo paese regredisca alla velocità del suono culturalmente, nel modo di parlare, di pensare, di comunicare. Senti Olivia, ripetiamo allora qual è il sito, l'indirizzo? www.inuovimostri.it è aperto alle iniziative culturali di chiunque voglia entrarvi. Bene, mi viene il dubbio, Oliviero, poi ne parleremo, a proposito del titolo del tuo libro Eros Terminal, il sesso, l'età, il potere, no? Non è che con questa storia, cioè, con tutti questi scandali sessuali che vengono fuori ultimamente, la politica ma anche i calciatori, non è che prima non si faceva e adesso si fa di più, o prima si era più riservati e adesso com'è questa storia? Io ho un'idea, anche se la materia è molto scivolosa, io ho un'idea però sufficientemente netta, che distingue l'eros, il sesso, la sensualità e il mistero che dovrebbe, o in realtà aleggia davvero su come siamo fatti da questo punto di vista, le nostre reazioni, la nostra privatezza sessuale, via dicendo, distinguerei tutto ciò dai commerci erotici. Quello che di cui assistiamo, di cui parlavi tu, sono commerci erotici, sono quanto di più antierotico ci sia. L'erotismo è in uno sguardo, in una carezza, in un modo di... E poi c'è anche erotismo bruto, se vuoi, nel sesso duro, come si dice. Ma insomma, certamente non ha molto a che vedere con tutto quello che leggiamo. Quello di cui ormai da mesi abbiamo riempito la nostra informazione, no? è commercio erotico, che è un'altra cosa. 800 24 00 24 per dire la vostra opinione sui fatti della settimana. C'è Oliviero Bea come opinionista estemporaneo oggi, tra poco ci sarà il primo ascoltatore, Angelo da Venezia, però anche sempre un punto di vista extraterreno. Riflessioni da Marte. Come si dice sulla Terra tra voi umani, no? Come si dice, il mondo è bello perché è vario. in effetti è piuttosto vario. Per esempio, in un bar di Roma il caffè costa 2 euro, ma solo se sei rom, perché se sei invece italiano costa 75 centesimi. Mentre sempre a Roma, un filetto di rombo al forno in crosta di mandorle costa 5 euro e 20 centesimi, ma solo se sei parlamentare, essendo il ristorante quello interno al Parlamento. E se per questo c'è anche una scaloppina di vitello alle bacche di ginepro in salsa di marsala a 3 euro e 22 centesimi. In Italia, dove ci sono almeno 2 omicidi in famiglia alla settimana, commessi nel 99% dei casi da uomini ai danni delle donne, un uomo in questi giorni ha freddato, il caso di dire, viste le temperature, ha freddato a fucilate la nuora e la nipote. E del resto queste non chiudevano mai questo benedetto cancello, che diamine, un po' di rispetto, no? In Turchia invece, proprio perché, come si diceva, il mondo è bello perché è vario, una ragazzina di 16 anni è stata agguantata da padre e zio, legata, fatta accomodare in una fossa di 2 metri e sepolta viva, giù tutta la terra addosso. Del resto, dicono gli amorevoli familiari, ella dava troppa confidenza ai ragazzi, insomma, una vera svergognata, diciamo. Poi, sempre a proposito del mondo vario, no? Monsignor Scatizzi, ex responsabile della diocesi di Pistoia, invita evangelicamente i preti a escludere i gay dal sacramento della comunione. Del resto, forse lo diceva anche Gesù, può darsi, tipo, ama il prossimo tuo come te stesso, purché non sia del tuo stesso sesso. E forse diceva una cosa del genere. E tutto questo mentre il boss della Magliana, Enrico De Pedis, dopo una vita stressante di omicidi, riposa in pace nella Basilica Romana di Santa Apollinare. Insomma, dicevamo, no, il mondo è bello perché è vario, ma essere vari, è chiaro, è un valore, sia chiaro. Lo dimostra il fatto che, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Science, un animale che può colonizzare l'intero pianeta Terra per le sue caratteristiche è, signore e signori, il rospo. Sì, perché è quello che con la sua varia e mutevole attrezzatura può adattarsi a qualsiasi situazione. È destinato, insomma, ad avere un successo planetario. E a giudicare dai rospi che tanti esseri umani devono buttare giù quotidianamente, alle fattezze interne ed esterne, ma soprattutto interne, di tanti bipedi umani, si potrebbe pensare in realtà che i rospi, il pianeta Terra, l'hanno già colonizzato da un bel po' di tempo. E via le vostre telefonate, le vostre libere opinioni sui fatti della settimana al numero 0, al numero verde 800 24 00 24. C'è Angelo da Venezia, dicevamo. Angelo. Sì, ciao Roberta. Ciao Angelo. Bentrovata. Bentrovata. Ciao a Oliviero, che con lui ho un filo diretto, anche se lui non lo sa, perché io leggo il Fatto Quotidiano. Quindi, diciamo, è unilaterale, ma Oliviero adesso lo sai, quindi... Sì, ma dai tempi di Radio Colori, con lui, insomma, c'è sempre nella mia vita un po', si può dire, ecco. Bene, è bello saperlo a un certo punto, magari passano degli anni. Ascolta Roberto. Prego, Angelo. Mi sono scritto questa annotazione, non ti ruberò più di un minuto, no? Adesso lo cronometro, vediamo, puoi partire. No, dai, fammi un minuto e mezzo, così. ti voglio dire, guarda, che non ne parli Cruciani, passi. Che non ne parli Gianfranco Fabi, passi. Che non ne parli Nicoletti, Oscar Giannino, passi pure. Però c'è una notizia che tutta la stampa, i mass media, quelli in carta pecoriti, non hanno citato. Adesso te la dico. Sì, devo fare un rullo di tamburi? Sì, bravissima, dai, fallo. Ce l'abbiamo un rullo di tamburi? No, sì, ce l'abbiamo. Qualcosa di sottofondo. È una notizia non tanto nuova, per la verità, no? Della prima settimana di febbraio, ecco. È uscita dalla deposizione di Massimo Cencimino nel processo Mori a Palermo. Sì. La mafia investì molto denaro nella costruzione di Milano 2 negli anni 70. Bene, abbiamo parlato in questi giorni. Aspetta, non so quanto. Adesso ti dico tutto e dopo giudica. Sì. La costruzione fu fatta dalla Edil Nord. La Edil Nord è un'iniziativa del miglior presidente del Consiglio italiano degli ultimi 150 anni, no? Se la cosa fosse vera, e io dico che lo è, dovrebbe far tremare le vene ai polsi, no? A chi se ne sta seduto adagiato sul sofà, legge i soliti giornali e crede di essere informato. Stai attenta, sarà perché la notizia non è tanto nuova e qualcuno da tempo la sussurrava, però non è stata molto trattata dalla stampa dominante, quella che io chiamo in carta pecorita, no? In compenso, stai attenta, anche Radio 24 in questa settimana ci ha reso edotti, ma proprio ad abbondanziam, del caso Morgan, mm-hmm. Che è un caso di iperbenismo all'italiana, si fa ma non si dice, oppure per esempio del fatto che il Papa, beato lui, ha dichiarato che il capitalismo deve avere un volto umano, che troppe persone stanno perdendo il posto di lavoro. Allora, due punti. Sapere tutto questo a noi che cosa ci cambia? Che cosa cambia per Morgan o per il Papa? Oppure il Papa metterà in atto qualche iniziativa a beneficio di sti poveri cristi che perdono il lavoro? E poi ancora, a che serve che i media, e in questo caso vorrei dirlo ai tuoi colleghi, no? Cruciani, Fabi, Nicoletti, per Fabio carità, è direttore. Lui è il professore, non c'entra granché con queste cose, no? Ma a che serve che i media mi tartassino tanto con tutte queste fesserie? Forse serve solo una cosa, guarda, la distrazione di massa. Angelo, io ti ringrazio, è durato un pochino più di un minuto e mezzo, diciamo, questa tua arringa. In realtà noi delle rivelazioni di Massimo Ciancimino al processo al generale Mori ne abbiamo parlato, ne abbiamo dato cronaca, poi ovviamente ci dovranno essere i riscontri concreti, reali, no, di queste sue dichiarazioni, quindi più che dire che cosa dice durante il processo, poi altro. È chiaro che il fatto di Morgan, probabilmente altri ascoltatori poi ne parleranno, è una cosa che ha colpito molto, forse è un modo anche di stracciare il velo, come si dice, su una certa ipocrisia, comunque poi anche per riflettere sul perché tante persone, tantissime in tutto il mondo occidentale in particolare, si facciano di cocaina, è una cosa incredibile. Però insomma tutti gli argomenti sono più o meno ugualmente validi, c'è qualcosa di più importante, c'è qualcosa di meno. Però ritorniamo un po' sui vari argomenti che ha buttato sul tappeto prima Angelo da Venezia. Oliviero, allora questa cosa, vabbè, a parte le rivelazioni di Ciancimino, allora, dare troppo spazio a Morgan... Ordinatamente Roberta, con la sintesi che ci insegna la radio, a te che la fai e a me che ormai l'ascolto dopo averla fatta per tanti anni ed essere stato, come dire, subissato da una censura meravigliosa e onnicomprensiva. Dunque, intanto a proposito di mezze stagioni, pensa che c'è un distico nel romanzo Eros Terminal, prima dell'inizio del romanzo, che dice le mezze stagioni sono tornate, ma sono grigie e per lo più indifferenziate e soprattutto sostituiscono le stagioni intere. Lo terrò come sottotitolo, allora. Questo è il distico, mi è venuto in mente sentendo le mezze stagioni, che sono queste, il fatto che non ci siano più, che è un leitmotiv nella trasmissione. Dunque, allora, intanto la cosa principale, i rospi. Noi siamo cresciuti, credo, con una favolistica molto sviluppata sul fatto che il principe veniva mutato in rospo, il rospo ritornava in principe. Si può riscattare. A questo punto dobbiamo pensare che la vera fortuna è essere rospi, non principi. Soprattutto vedendo che i principi circolano anche in Italia. Dunque, questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, non entrerei nel merito di Ciancimino, notizia che fra l'altro è stata data, se non per dire che c'è una questione di fondo nell'informazione di questo paese. Io me ne sono occupato nei nuovi mostri, ma insomma è sempre attuale, non credo che sarà facilmente risolvibile, e cioè la gerarchia, o perlomeno è discutibile la gerarchia di importanza delle notizie da un lato, e manca quasi totalmente, dico quasi perché sono di buon umore, la sorta di collegamento, di nessi, come tessere di un mosaico fra le notizie, cioè vengono date, sparpagliate e mai legate le une alle altre. Questa è una tesi che io, come dire, sostengo dove posso da un sacco di tempo, che aspetta di essere contraddetta e che in un certo senso si può ricollegare al fatto che quando nel 93-94 si è imposto, prima con un referendum e poi con l'applicazione di questo referendum, sia pure in modo posticcio, il maggioritario nella politica italiana, si è imposto, per modo di dire, è stato sempre un maggioritario appunto cialtronesco, non completato per tanti motivi che adesso vi risparmio a quest'ora del pomeriggio, ma insomma contemporaneamente si è invece realizzata nella stampa italiana una meravigliosa trasformazione dichiarata nel maggioritario. E di Roberta, prima di allora, il proporzionale garantiva in un certo senso, non per i suoi meriti, non che fosse meglio o peggio, ma che ognuno dicesse la sua. ma in qualche modo c'erano gli interstizi di libertà o di circoscrivibilità di notizie, per cui ci si poteva muovere in un certo modo. Dopo il maggioritario, i miei colleghi, i nostri colleghi, la stragrande maggioranza dei colleghi si è sentita autorizzata, fuori da ogni ipocrisia, a dire: io sono per Berlusconi e sto da quella parte, io sto contro Berlusconi e sto contro Berlusconi, come se la realtà si potesse dividere in due, per cui se per esempio io adesso penso di Berlusconi il peggio, ma su certe cose penso che abbia ragione, non lo posso più dire, perché comincerebbero a dire: ma allora Bea si è venduta a Berlusconi. Cioè è diventata una follia nazionale, e questo purtroppo veramente aggredisce le ragioni fondamentali della libertà di pensiero, di espressione e di stampa. Per cui è verissimo il discorso su Ciacimino, ma è altrettanto vero che purtroppo non vengono collegate le cose. Faccio un esempio: D'Alema qualche giorno fa ha detto: io non mi sono mai nascosto di fronte al giudice Nordio che mi inquisiva ai tempi di Tangentopoli, questo naturalmente opponendolo a tutta la questione del legittimo impedimento e tutta la serie di nefandezze a cui assistiamo quotidianamente in Parlamento pro Berlusconi. Ma nessuno gli ha rinfacciato, nessuno in modo serio, che D'Alema 2 anni e mezzo fa è scappato quando c'è stata la questione delle intercettazioni sulle scalate bancarie. È scappato lui, è scappato Fassino, è scappato La Torre, come sono scappati i 3, Cicu, Comincioli e Luigi Grillo del centrodestra. Cioè sono scappati tutti e 6, come 3 Orazzi e 3 Curiazzi, l'ho scritto sul Fatto, e come dire, non sono contenti che uno metta in luce il fatto che il meccanismo dell'intera classe dirigente di questo paese purtroppo è guasto. E questo ripropone la vera domanda: che fare per il futuro, visto che non c'è un cavaliere bianco, azzurro, viola, ma che ci salverà? Che fare? Come ricominciare a vivere in un paese che sta precipitando? Questa è la domanda di fondo, al di là di Ciancimino, di Dell'Utri, dei soldi del Nord e via dicendo. E di Morgan. Io di Morgan, a proposito, se qualcuno voglia andare su Tiscali, c'è un mio pezzo su Morgan intitolato I trapezisti sul baratro e il caso Morgan. Sto credo dicendo quello che hai appena riassunto tu. Signori, qui c'è una società strafatta in senso stretto, in senso lato, e noi giustamente ci preoccupiamo di Morgan che non va a Sanremo, salvo il fatto che vada Vespa a dire che non va a Sanremo, che cosa, non è che lo dice a casa sua, lo suggerisce dal buco della serratura, no, vada Vespa. E quindi ha barattato, forse lo diceva Francesco Merlo, 5 minuti, che non, no, Berselli, che non andrà 5 minuti a Sanremo, ma si è guadagnato 2 ore su Porta a Porta. Però su questo poi torniamo, vediamo anche gli ascoltatori se hanno voglia di ritornare sul caso Morgan all'800 24 00 24. Come promesso, tento il più sinteticamente possibile, con bombole di ossigeno, di farmi una sintesi di alcune minime notizie della settimana. Questa di oggi: il messaggio di Berlusconi all'inaugurazione dei lavori per la Pedemontana rassicura che l'Italia in questa crisi se la sta cavando meglio degli altri e di altri paesi, dice: abbiamo abbassato le tasse. Poi c'è il primo congresso nazionale dell'Italia dei Valori in corso, con Di Pietro oggi che ha parlato. Le polemiche sulle foto che, se per riguardo a Di Pietro, lo ritraevano negli anni 90 con l'ex 007 Bruno Contrada. L'avvertenza Fiat, piuttosto difficile. I scioperi in Sardegna per la grave situazione di crisi economica e l'Alcoa che minaccia di andarsene. Il probabilmente commissariamento di Bologna, perché non si riesce a eleggere per tempo con le amministrative di marzo un nuovo sindaco. Le rivelazioni, come dicevamo, di Massimo Ciancimino al processo contro l'ex generale dei Carabinieri Mario Mori, che ha citato Bernardo Provenzano, che secondo quanto dice lui aveva l'immunità nel periodo degli anni 90 in questa specie di accordo tra Stato e cosche mafiose, che poi dopo anche Dell'Utri teneva questi rapporti diretti tra Stato e mafia. Questo sempre detto da Ciancimino. Poi Maroni, che ha posto lo stop di fronte a una possibile legge antipentiti che sembrava venire fuori da una proposta di legge da un deputato del PDL. Per quanto riguarda la giustizia, anche questa sentenza della Cassazione che potrebbe mettere a rischio molti processi di mafia, perché con una legge che prevede un inasprimento delle pene per le persone colpevoli appunto di reati mafiosi, questo inasprimento porterebbe le pene sopra i 24 anni e se sono pene sopra i 24 anni dovrebbero occuparsene di questi processi le corti d'assise e non più i tribunali e quindi per un sovraccarico, per altre questioni logistiche, organizzative, burocratiche eccetera, molti di questi processi rischierebbero di andare a farsi friggere e Alfano però, Ministro della Giustizia, dice interverremo. Poi i crolli delle borse europee in questi giorni, no? Per i timori per l'economia disastrata di Spagna, Grecia, Portogallo. La visita di Berlusconi in Israele, dove ha fatto un discorso al Parlamento, Parlamento israeliano e con le tensioni che ci sono state con l'Iran, perché ha detto inaspriremo le sanzioni verso l'Iran. Gli attentati in Pakistan e in Iraq. Il sempre più controverso caso Boffo, ex direttore dell'Avvenire, vi ricordate, con lo scandalo tirato fuori dal giornale di Feltri. Poi invece si era un po' rimangiato dicendo che era stato un falso, ma adesso si parla di veleni dentro le gerarchie vaticane, eccetera, eccetera. Poi il nucleare. Il governo fa ricorso alla consulta contro le regioni, quelle tre regioni, Puglia, Campania e Basilicata, che non ne vogliono sapere di avere centrali nucleari. Forse si farebbe prima a chiedere quali regioni vogliono, alzi la mano, quelle che vogliono le centrali nucleari. Poi la pizza napoletana, abbiamo detto, il maltempo, la questione, il caso Morgan. In Gran Bretagna il calciatore del Chelsea, il difensore Terry, a cui che è stato sfasciato, nel senso che è stata levata la fascia da capello, che è il tecnico della nazionale inglese, perché per questa sua avventura extraconiugale con la moglie di un suo ex compagno di squadra. Quindi insomma, capello ha ritenuto di levargli questa fascia. Poi le candidature all'Oscar con Avatar, che è candidato a ben 9. Devo dire che nonostante la fantascienza e il fantasy non sia uno dei miei generi preferiti, è molto bello. E poi The Hurt Locker, quindi due film di due ex coniugi che sono Bigelow e Cameron, che sono in contrapposizione con 9 candidature ognuno. La Formula 1, Schumacher che torna a correre sulla Mercedes, e direi di fermarci qui e di dare la parola a Fulvia dalla provincia di Milano. Ci sono tanti ascoltatori e quindi cerco di... Fulvia! Fulvia, buongiorno a lei, Elisabetta, grazie per avermi richiamato. Volevo intervenire. Fulvia perché... o Elisabetta? Non ho capito, Fulvia. Fulvia, io sono Roberta. Fulvia, piacere per aver l'onore di parlare con Elisabetta. No, sono Roberta. Roberta, vede sì. Che io mi sono ingarbugliata nel, vabbè, Roberta, nel meandro di Radio 24. Come ho detto al centralinista, volevo dire la mia in merito alla trasmissione di Oscar Giannino che ha avuto ieri come ospite d'onore il ministro Gelmini per spiegare la nuova riforma della scuola. Mi permettevo di fare un intervento perché come premessa le dico che sono un insegnante della scuola dell'infanzia da molti anni ormai e quindi ho passato su me stessa, come tutte le colleghe, le varie riforme che sono state fatte nella scuola. Questa riguarda in particolare la scuola media superiore. Però in ogni caso veniamo toccati un po' tutti come lavoratori della scuola perché il ridimensionamento che è stato fatto a livello di ore, a livello di soprattutto di stanziamenti, le dico perché anche noi usufruiamo di piccoli stanziamenti per poter così acquistare proprio il materiale che è necessario e penso, anche se lei non conosce direttamente la realtà della scuola dell'infanzia, il materiale strutturato è quello che per noi è pane quotidiano. È vero che si parla anche di carta igienica in questi casi, al di là del materiale. Brava, ecco, io ho parlato didattico. Della cosa più impegnativa che è il materiale didattico, che comunque è importante per la didattica quotidiana. Lei giustamente ha parlato anche delle cose. Perché so che qui sentivo a Milano varie mamme che portano la carta igienica. Sì. Bravissima. L'unica cosa che mi sembrava che nessun ministro, e in primis la ministra Gelmini, visto che lei ha così sbandierato ieri la riforma che lei sostiene, giustamente, non dico di no, si dovrebbe fare un passo indietro e verificare, visto che lei ieri ha risposto a un radioascoltatore che giustamente puntualizzava il fatto che la scuola statale viene meno e comunque i cittadini continuano a pagare le tasse e pagano comunque anche il sostegno oneroso che lo Stato fa nei confronti delle scuole paritarie. Non parliamo di private perché il ministro proprio ieri ha tenuto in debito conto fare la distinzione, non si può più parlare di scuole private o pubbliche, ma scuole paritarie, e che comunque sono tutte pubbliche, e sembra, a detta del ministro, forse mi sono sbagliato io, spero che mi possa correggere, dice che lo Stato comunque, proprio perché ci sono le scuole paritarie, risparmia un sacco di soldi. Allora non capisco a questo punto perché le scuole paritarie devono essere finanziate, visto che le scuole paritarie comunque accettano una retta che viene pagata dalla famiglia che decide per la scuola paritaria. Noi come scuola pubblica, oltre a non avere più i finanziamenti che avevamo perché sono stati decurtati tantissimo, le dico che attualmente nella scuola dell'infanzia non riusciamo assolutamente a prendere quello che è il materiale di facile consumo, qualche gioco didattico. C'è sempre, come opinionista estemporaneo di oggi, in collegamento Oliviero Bea, scrittore, giornalista, autore teatrale, poeta, conduttore televisivo, radiofonico, è appena pubblicato per Garzanti, Eros Terminal, il sesso, l'età, il potere, e cura anche questo ultimamente questo progetto su... su internet www.inuovimostri.it. se avete associazioni culturali, avete voglia un po' di muovere questo mondo un po' bloccato, e diceva Oliviero Bea, fermare un po' l'imbarbarimento del nostro paese da vari punti di vista, senza questioni politiche né destra né sinistra. Però ancora spazio alle vostre telefonate, che sono tante. C'è Giorgio, c'è Luisa, c'è Giulian da Catanzaro. Buongiorno. Giulian, grazie della pazienza. Buongiorno, grazie a lei. Innanzitutto faccio i complimenti per la sua voce. Grazie Giulian. Senta, io sono un estimatore da circa 20-25 anni del signor Bea, il quale è ammirato per coerenza intellettuale e per la schiettezza. Volevo fare una domanda. Sì. Volevo sapere cosa ne pensava lui in tutta la sua immensa... sapienza e saggezza. Sì. Sì. Volevo sapere cosa ne pensava del signor Di Pietro, che io in parte stimo, e in altra parte no. Volevo sapere cosa ne pensava di questo Di Pietro che indirizzava per le varie regionali, le varie elezioni, indirizzava al PD dei candidati. Ora, voi sicuramente non sapete le situazioni regionali, in quanto non ascoltate le TV, le radio private del luogo, per esempio in Calabria, in Lazio, eccetera. Sapete a grandi linee, sì, ma... a grandi linee, perfette, ma non per vostra pecca. Allora volevo dire, nel contesto regionale Di Pietro proprio forza la mano su dei candidati, senza entrare adesso nello specifico. Io comunico che sono apartitico, cioè nel senso non voto da minimo 20 anni, non mi farà onore, ma non voto perché mi sento proprio spaesato. Lo stesso numero di anni dal quale ammiri Oliviero Bea, quindi c'è una strana coincidenza. No. Perfetto, ripeto, non fa bene non votare, perché lo sappiamo tutti. Perché e come fai? Come Morgan che dice mi drogo però non vi drogate, scusa Giulian. No, non parliamo, io sono un musicista, guarda, non mi parlate di Morgan e di tutto lo spazio che gli stanno dando. Quando poi parla un fisico nucleare, lo stringono perché i tempi non sono non sono buoni, allora facciamo parlare Morgan. Quelle l'audite. Giulian, di dove sei? Questo nome è proprio... Catanzaro. Calabrese, tuo, così, sì, Giulian. Sì, sì, ho capito. Sì, sì, sì. Giulian, sì. Io volevo sapere come mai quest'uomo indirizza, questo parlamentare che ripeto per parte ammiro, indirizza forzatamente per il fatto che lui viene dalla società civile, vuole far parte della società civile. Cioè, perché a te questo candidato non piace, qual è il problema? No, mi piace, mi piace, ma perché indirizza forzatamente? Ah, forzatamente. Con la sua veemenza. Va bene, Giulian, grazie, no. Grazie ancora. Oliviero, Bea, vuole sapere da te cosa ne pensi di Pietro. Beh, io ripeto, sinteticamente quello che scrivo da anni nei miei libri, ho dei buoni rapporti anche qualche volta conflittuali con Di Pietro. Penso che sia uno che si batte contro chi vuole abolire il codice della strada e ogni tanto però passa col rosso, quindi è meno grave passare con il rosso ma voler far rispettare il codice della strada, soltanto che sarebbe più credibile se non passasse con il rosso. Lo so, è una seccatura star lì a volte con il rosso senza che passi nessuno, però il rosso lo si rispetta oppure no, inteso metaforicamente e anche letteralmente. Cosa voglio dire? Che Di Pietro è andato a cercarsi i voti, essendo stato messo fuori alla fine degli anni 90 dalla politica che contava, è andato a cercarsi i voti dove i voti c'erano, cioè in sacche di società civile, o per meglio dire incivile, al limite dell'illegalità, lo si è visto con alcuni candidati ormai di qualche anno fa. entrato al banchetto della politica e purtroppo non è riuscito, non ha saputo, non ha voluto liberarsi di alcune modalità che rendono questo paese impraticabile da tanti punti di vista. Questo non toglie che però faccia battaglie sulla legalità che non fa nessun altro, quindi, come dire, ben vengono le battaglie, se uno si domanda se deve per forza pagare un prezzo a questo rosso con cui passa queste violazioni del codice, sostenendo uno che invece vorrebbe che il codice non venisse abolito. Non so se ho chiaro l'idea. Chiarissimo, Oliviero. Ritorniamo al numero verde 800 24 00 24, c'è Giorgio De Luca che sta prendendo le vostre telefonate con una frenesia e una capacità incredibile. Allora Giorgio da Bologna. Pronto? Giorgio, eccoci qua finalmente. No, niente, io volevo parlare del fatto di Morgan. Sì. Cioè, la cosa è la radio accesa. Lasciato... Giorgio, è la radio accesa che si sente un reverber. Grazie. Spengo. Eccolo là. Ecco sì. Fatto. Prego. Ci sente? Si sente benissimo. Allora, del caso Morgan, il fatto che tutta questa diciamo così, non levata di scudi, cioè, ma si sapeva, si sa che il mondo della musica, il mondo, cioè, in poche parole, ce n'è uno che io faccio il muratore, Io faccio il muratore, così ho dovuto chiudere, cioè, la ditta ha chiuso, licenziato, tutto quanto, cioè, ma io quello che vedo in questa società vedo proprio lo sfascio, cioè, voglio dire, noi siamo una repubblica, va bene, siamo la settima potenza al mondo industriale, siamo sopraffatti, c'è una corruzione pazzesca, siamo in mano alla mafia, basta che passi Roma, Firenze, così siamo dominati dalla mafia, non si riesce a stirpare, cioè, c'è una corruzione immane, cioè, io non vedo niente, io non vedo nessuna ripresa, ma quale ripresa? Cioè, qui c'è proprio il magna magna, qui c'è il si salvi chi può, cioè, qui il futuro, quello che penso io personalmente, è questo, quello vedo anche per le generazioni avanti, non vedo niente di buono, qui si va proprio la catastrofe, è inutile menarla con le colleghe, capito? Chi c'ha, chi non c'ha, auguri. E figli e femmine. Giorgio, senti, ma il tuo il lavoro come muratore poi riesci a recuperare, a ritrovarlo, a parte l'azienda che dicevi che ha chiuso? Penso proprio di no, perché a parte il mondo del lavoro è cambiato, da quando certo, è scoppiata questa crisi, tantissimo. Il mondo del lavoro, da quello che vedo, capito, è cambiato completamente, qui siamo a livelli, io non parlo solo del mio, proprio a livelli siamo tornati, non dico lo schiavo, però capito, è cambiato anche quello, anche lì c'è una corruzione dal più piccolo imprenditore, capito, al più grande, proprio è un passamano sotto per avere un piccolo lavoro, capito, un piccolo appalto, devi pagare questo, devi pagare l'altro, non c'hai capito, non c'è niente da fare, cioè io vi ripeto, quello che vedo è proprio lo sfascio più completo, cioè, capito? Cioè non è possibile essere in una nazione del genere dove la mafia domina una nazione, cioè, e non si riesce a stirpare, non si riesce a stirpare perché sono degli interessi, cazzo. No, no, su questo hai ragione, Giorgio, è estremamente scandalosa questa cosa di questo cancro davvero che irretisce il nostro paese. Giorgio, poi sentiremo Oliviero Bea cosa ne pensa, ti ringrazio di questo tuo intervento. Volevo sentire sempre il numero verde 800 24 00 24 anche Luisa da Torino, che un po' che aspetta. Luisa? Sì, eccomi. Eccoci, ecco. Eccomi, visto che siamo allo sfascio, come sì. Dice l'ascoltatore precedente, Giorgio, sì. Ci occupiamo di Morgan al Festival di Sanremo. Allora, se veramente in Rai, che sono così prude, provassero a fare un test antidoping ai cantanti e agli artisti del Festival di Sanremo, ci sarebbe veramente da ridere e da parlare. Solo gli artisti di Sanremo, dici? Io un po' no, un po' dappertutto, ma visto che parliamo di Morgan e di Sanremo, e proviamo come si fa nei concorsi con i cavalli, ad esempio, ai primi tre vincitori il test fisso e invece così a sorpresa, a spot, negli altri ogni, una bella presina di sangue e andiamo a vedere com'è, perché questi qui della RAI pensano proprio che noi siamo proprio tutti deficienti. Siamo deficienti perché paghiamo il canone per delle cose oscene che passano in RAI, questo senz'altro. E però non esageriamo, perché la gente non è tutta stupida. Poi Morgan può anche buttarsi nel pozzo, saranno affari suoi, e l'andare a dire ho fatto, ho detto o non ho detto, e probabilmente era a livello di tante canzoni di tanti altri artisti che passano, che basta ascoltare le parole. Nello stesso tempo vorrei proprio tanto pregare Oliviero Bea di tornare a farsi sentire, a farsi vivo. D'accordo, adesso su internet va bene, però è proprio sparito. www.nuovimostri.it. Vedi, allora è qua oggi, quindi approfittiamone. Luisa, ti ringrazio moltissimo. Allora la parola subito a Oliviero. Beh, intanto per Luisa e per chiunque fosse interessato, non sono scomparso, sono stato censurato, succede nelle migliori o nelle peggiori famiglie, quindi non mi viene data la possibilità, salvo un minuto sul TG3 della domenica sera, della domenica alle 19, non mi viene data la possibilità di attingere ai mezzi di comunicazione di massa. Scrivo sul Fatto e scrivo libri. Che negli ultimi 20 anni la mia, diciamo così, notorietà sia andata a gambero, regredendo in forza della impossibilità di, appunto, di arrivare ai mezzi di informazione, ahimè non dipende da me. Quindi, cara Luisa, purtroppo non sono nelle condizioni di possedere né una radio né tantomeno una televisione. Faccio con i mezzi che ho. Oliviero, intanto sei qui, sono contenta, ma lo sfascio di cui parlava Giorgio, già tu hai detto l'imbarbarimento del paese. Mettiamoci d'accordo, sfascio è sotto i nostri occhi, del resto basta mettere insieme anche soltanto quella campionatura delle tue telefonate per avere un'idea. E Berlusconi sbaglia a dire che non c'è la crisi o che la crisi è superata, o che capisco che un Presidente del Consiglio in qualche modo debba salvare la patria, ma la cosa più grave è che se ci fosse i suoi avversari, la sedicente sinistra, al governo direbbe che la crisi è profonda, e viceversa, se ci fosse la sinistra al governo direbbe al posto di Berlusconi siamo stati i meno peggio. Quindi, come vedi, il meccanismo è il solito, il meccanismo della politica. Per cercare un po' di verità però bisogna dirci le cose come stanno, cioè senza interessi precostituiti. La situazione è che noi stiamo andando indietro, il pianeta sta andando indietro, camuffato da evoluzione tecnologica e scientifica, il pianeta e il paese nostro in particolare, che noi abbiamo sotto gli occhi, stanno andando indietro. Non è scritto da nessuna parte che il mondo debba andare avanti, le cosiddette magnifiche sorti e progressive. Bisogna cercare di, in certi periodi della storia, di ridurre il danno. Adesso il danno ce lo dà il fatto, ritornando all'Italia, ce lo dà una classe dirigente a destra come a sinistra che non solo non investe sulla scuola, ma gli riduce i mezzi, e non ha mai avuto un programma politico serio né la destra né la sinistra per privilegiare tra le varie urgenze quelle della scuola, e che dimostra da chi siamo governati negli anni, poi da chi siamo governati o dimostra l'opposizione che abbiamo. Per quel che riguarda la giustizia, che ogni tanto salta fuori dalle prime pagine naturalmente, ma anche dalle telefonate, c'è una giustizia civile oltre quella penale, il casino della giustizia penale, bene fa il magistrato Ingroia a dire dove può, signori, o facciamo chiarezza per tutti oppure è un macello, ma c'è anche la giustizia civile che è invereconda, c'è la giustizia amministrativa italiana di cui non si parla mai, che è altrettanto nefanda, è un paese che sta andando indietro alla velocità del suono. Da dove ripartire? Secondo me da un minimo di consapevolezza, quindi di cultura intesa non quanti libri hai letto, ma quanto stai a ragionare. Cultura umana, civile, in quel senso, ecco, insomma, di in pensiero questo critico. Senso, sì. Quindi, voglio dire, questo prova a rispondere. C'è uno sfascio, ma non si reagisce allo sfascio dicendo sei un catastrofista. Vediamo da dove ripartire. vorrei sentire grande sintesi Angela da Bergamo. Angela, chiedo perdono. Buongiorno. Sono una grande ammiratrice del giornalista Bea e di lei Roberta, che sento sempre. Grazie, per Angela. Quanto riguarda il caso Donna Boffo, Gusto, io scrizzo sì. fiele, perché veramente sono così rabbiosa per tutto quello che sta avvenendo. Hanno stracciato, infangato caso Boffo. La dignità di questo direttore dell'Avvenire e l'altro giorno leggo che il signor Feltri l'ha invitato a pranzo in un locale frequentato, in modo che si vedesse quanto era magnanimo, quanto era disponibile a rivedere. Hanno pranzato insieme, sì. Oggi leggo addirittura che precedente era per un patto di non belligeranza che stava per essere messo in atto tra governo e Santa Sede. Queste cose mi fanno veramente arrabbiare, perché in vista delle elezioni non si pensa a tutto il male che si è fatto, e questa mancanza di umanità, di positività è veramente indecente. Angela, ti ringrazio, è stata di una sintesi straordinaria, grazie infinite, siete molto comprensivi e a questo punto proprio molto sintetico, lo so, glielo mando il messaggio subliminale, sarà il colonnello. Mi basta la sua voce e sapere che cosa ci dica per la prossima settimana, colonnello Giuliacci. Fantastico, neve, basta, freddo, torna, arriva la primavera. Ciao Roberto, un saluto agli ascoltatori. Ciao, colonnello. A Cogna dall'alto delle montagne, qui la neve. Val d'Aosta. Ecco. Sì. Sono in Val d'Aosta, ma riesco meglio a scrutare l'Italia, il tempo che farà. Beh, ti dico, oggi ci saranno ancora piogge sulle regioni adriatiche e al sud. Domenica bello su gran parte d'Italia, solo piogge solo su media adriatica al sud. Prossima poi, settimana? Sì. Poi ecco, lunedì bello, martedì, mercoledì piovoso, poi dulcis in fundo. Attenzione, intorno giovedì potrebbe ritornare il grande freddo per 4-5 giorni su tutte freddo siberiano. Quindi ricordatevi, cominciate a tirare fuori i cappotti, quelle pesanti. Cappotti col bacco, grazie anche tu, colonnello, oggi guarda, sei stato di una bravura sintetica veramente impareggiabile. Grazie. Grazie. Salutaci Roberto. La Val d'Aosta e le nevi. Vedi lassù. Senz'altro. Ma grazie. Canti Olala You ogni tanto? Olala You. Sì, sentiamo il che già. Proverò, lo devo imparare bene. Grazie, ciao colonnello. Ciao Roberto. Allora, molto sinteticamente ancora vi chiedo veramente, per favore, tra poco sentiremo anche Valeria della Valle Augusto, dalla provincia di Varese. Pronto? Augusto? Pronto? Augusto, mi senti? Sì. Pronto Augusto, ti sento benissimo. Sì. Riesci, diciamo, in 67 secondi a dire la tua? Allora, dovrò parlare molto velocemente. Scusa. Volevo chiedere qualcosa, appunto un giudizio su questa storia della Cassazione che dice che dovrebbero fare questi processi di mafia alle corti d'assise. Non l'avevo capito bene perché sono bloccato in casa dalla neve e non ho comprato i giornali, ho sentito solo una notizia vaga. Io adesso ho capito di cosa si trattava. Hai capito Augusto, l'avevo comunque spiegato prima un po'. Il mio commento sulla giustizia adesso è questo. Vabbè, ci sono queste grandi questioni di cui si devono occupare, giustissimo. Però voglio dire, con tutto quel che si fa di parlare di processi brevi, questa Corte di Cassazione mi risulta che ultimamente si è occupata di con questioni tipo che un toccarsi i testicoli in pubblico per un uomo sarebbe un reato, o dire va riammazzato a qualcuno potrebbe essere un insulto o uno scherzo. Quindi con tutto quello che si parla di tempo che manca, vanno ad occuparsi di queste cose, e questo vabbè, mi lascia abbastanza basito, insomma. Augusto, ti ringrazio perché è stato più breve di qualsiasi processo, veramente. Posso leggerle una frase da un libro sì. che è relativo al vostro titolo? Sì. Allora, si dice che gli inverni di Lombardia si vanno facendo sempre più rigidi e che si passa di colpo dal gerare all'ardere e viceversa senza temperature intermedie, così che per molta parte d'Italia anche il bel clima va a classificarsi fra i vanti dei tempi andati. Scritto da Giovanni Raiberti, morto nel 1861, il quale termina dicendo soprattutto per i disboscamenti delle montagne, come anche delle frequenti causano rapide frequenti inondazioni e tante altre pubbliche sciagure prevedute e minacciate fin dal principio del secolo da autorevolissimi scrittori, i quali sono ad esempio un tale Giuseppe Gualtieri, che nel 1817 aveva pubblicato un libro in cui parlava di queste cose. Tu vuoi dire che niente è cambiato, che già se ne parlava? No, io sono troppo pessimista, perché oltretutto recentemente ho letto anche tutte le poesie di Giuseppe Giusti scritte verso il 1830 in cui ci sono frasi tipo chi ha rubato abbastanza da campare si è lasciato svignare, in cui c'è scritto se un ingegnere devoto della zecca sulle volture o sul catasto lecca. Augusto. E quella che prima mi ha lasciato basito, veramente l'ho trovata, che dice, parlando della guerra, La spada è un'arma stanca, scanna meglio la banca. 1830. Augusto, ti ringrazio per queste pillole di saggezza senza tempo. Grazie Augusto. Grazie mille. Grazie, ciao Augusto. Perché vorrei chiedere, a proposito di questa vicenda di Morgan, sempre con quei pochi secondi a disposizione, ma lei è la donna più intelligente e più veloce del mondo, è Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, questa storia della droga eccetera, mi viene in mente il termine stupefacente, che mi ha sempre un po' sorpresa, no? Perché stupefacente ti fa pensare a qualcosa veramente di sorprendente. Tanto quando si è iniziato a usare stupefacente, Valeria Della Valle, per le droghe? Ciao, eccomi qua, velocissima. Dunque, allora, intanto stupefacente, proprio per fare la lezioncina, è il participio presente del verbo stupefare, certo. Un verbo che usato già da Dante. Possiamo usarlo come aggettivo e appunto, come tu ricordavi, si può dire una notizia stupefacente, un risultato stupefacente. E come sostantivo, e proprio per indicare una sostanza che agisce sul sistema nervoso, si è cominciato a usare già dalla metà del 600 e nell'Ottocento già il famoso Tommaseo dava dello stupefacente una definizione tutto sommato abbastanza simile. Bonaria, perché diceva dicesi dei rimedi che arrecano una specie di sopore e tendono ad addormentare. Pensa questo quanto per tempo. Una storia velocissima della parola. Io però passerei dal participio presente, stupefacente, al participio passato e con questo concluderei. Il participio passato è stupefatto e direi che siamo stupefatti di fronte alle imprese della società strafatta di cui parlava Olivier Robea pochi minuti fa. Impareggiabile anche Valeria Della Valle, grazie. Grazie Valeria di questo gioiellino in chiusura, e tra poco chiederò una chiusura anche a Oliviero Bea, e con che ha appena pubblicato, dicevamo, Eros Terminal, il sesso, l'età e il potere per Garzanti, e partecipate al suo sito, a questo progetto www.inuovimostri.it se avete appunto iniziative culturali, interessi di questo tipo. Oliviero, stavo leggendo tra l'altro, era un'anticipazione di Repubblica di questa settimana, di un libro di un insegnante elementare, di un maestro, Giuseppe Caliceti di Reggio Emilia, che ha raccolto in un libro in 20 anni di insegnamento un po' di frasi di bambini immigrati. No? Te ne leggo e ve ne leggo due e poi mi dici tu invece una tua chiusura per oggi. Allora, uno è, scrive una bambina, Lili, 9 anni, cinese, dice: in Italia ci sono due re, un re è Berlusconi, l'altro re è il Papa. Berlusconi comanda l'Italia e il Papa comanda gli italiani. E poi un altro tra le tantissime: i lavori più leggeri sono degli italiani. Questo è Hisham, 8 anni, dal Marocco. I lavori più leggeri sono degli italiani perché sono arrivati prima in Italia. Probabilmente sì, siamo arrivati un po' prima in Italia. Questa è la logica dei bambini, ma è sempre molto sorprendente, molto illuminante. Oliviero, invece tu con cosa ci illumini in chiusura? Ma io intanto i bambini sono questo i bambini, minuto. I giovani sono la materia prima di qualunque paese, l'idea che noi li si tenga in questo stato, che siano italiani o che siano immigrati, fa lo stesso da questo punto di vista, è vergognoso. Poi c'è l'idea che tutto rimanga uguale, non è così. Io rispondo a quel signore e alle sue perle di saggezza che uno con un coltello, con una pistola può fare male in un certo modo, con la bomba atomica può fare leggermente altro tipo peggio di danno. Quindi io starei un po' attento nel dire che sì, forse l'uomo, carotandolo molto nel profondo, è lo stesso da sempre, però le sue manifestazioni esteriori sono diverse. È molto più rischioso questo imbarbarimento tecnologico o post-tecnologico. Peraltro, rimanere vivi in vita, cioè con un minimo di coscienza critica, per me è l'unica ricetta. L'unico salvagente. Oliviero Bea, ti ringrazio moltissimo. Grazie a te. Ti ringrazio di essere stato insieme a me e a noi oggi e ci risentiamo sabato prossimo, puntuali alle 14. Vi ricordo il libro di Oliviero Bea, Eros Terminal, il sesso, l'età, il potere, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.